Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Maite FM, chi vi parla dagli studi di registrazione di Radio Città Fujiko 103.1 è sempre Claudia Mighty Mau. Siamo qui stavolta per un altro festival, stavolta per qualcosa di diverso? No, sempre la stessa scena, sempre la stessa musica, a volte anche gli stessi nomi, ma non appunto in senso che barba, sempre la stessa musica, ma perché capita che il calendario ci propini degli eventi molto simili tra loro. Abbiamo aperto l'undicesima stagione di Maite FM ascoltando gli artisti che hanno partecipato al Sonar di Atene, prima edizione di questo festival prestigioso che per la prima volta appunto si è spostato in terra greca. Poi abbiamo proseguito con Robot, che inizierà proprio oggi, anzi è già iniziato mentre noi vi stiamo parlando, e nello stesso momento incredibilmente stiamo lavorando a Robot, ma invece siamo qui anche in radio, perché la radio è una bella cosa e anche la possibilità di registrare e andare in diretta differita lo è altrettanto. E quindi siamo qua per parlare del prossimo evento molto grande, molto importante, che segna sempre il Ponte dei Santi Morti, perché tutti i santi sono morti e molti morti sono santi, ovvero il Club to Club di Torino. Festival che si svolgerà da mercoledì 30 a domenica 3, quindi mercoledì 30 ottobre, domenica 3 novembre, e ad aprire le danze il mercoledì sera negli spazi enormi e ristrutturati delle officine grande riparazione di Torino, ovvero le OGR, sarà il rapper, anche se sembra più un cantante punk come attitudine eccetera, è britannico, ovvero Slotai. L'avevamo già sentito a Maite FM almeno una volta. L'album di quest'anno si chiama Nothing Great About Britain. Il pezzo che stiamo ascoltando è Doorman. Album che è stato anche candidato ai Brit Awards, ex Brit Awards, poi Mercury Prize, adesso penso che sia Hyundai Mercury Prize, perché gli sponsor ci devono sempre essere per forza, c'è passata anche la Barclay in passato. Slotai, ovvero Tyrone Camon Frampton di Northampton, con dei testi molto crudi e molto politicizzati e molto contro la Brexit, come si può intuire appunto da un titolo come Non c'è niente di grande relativamente alla Bretagna, è tutto tranne che grande, infatti sta diventando un po' un'isoletta provinciale, direi. E il suo nome era un soprannome, perché da piccolo aveva un po' dei problemi a parlare, era un po' lento, quindi veniva soprannominato Slotai, cioè Tyrone Lento, perché probabilmente c'erano anche altri ragazzi che si chiamavano Tyrone, quindi per differenziarsi. E sarà lui appunto ad aprire mercoledì sera 30 ottobre l'edizione Club to Club del 2019, e il giorno dopo, giovedì 31 ottobre, ci dispiace tantissimo non poterla vedere, ci sarà Holly Herndon, che abbiamo potuto conoscere e apprezzare e suonare e passare qui in trasmissione già diverse volte. Lei invece è americana, è una autrice, compositrice, musicista e artista del suono più in generale, adesso vive a Berlino, ha studiato composizione a Stanford University, ha fatto degli album molto sperimentali, molto d'avanguardia, molto innovativi, e questo ultimo, a partire appunto da Movement del 2012 con cui l'abbiamo conosciuta, e questo ultimo proto del 2019 è veramente meraviglioso. tu e da Proto. Adesso ascoltiamo due pezzi, il primo e il secondo, quindi proprio questo è il pezzo di apertura dell'album, si chiama Birth, non a caso, seguito da Alienation. Proto, scritto tutto in maiuscolo, e è un lavoro collaborativo insieme al suo partner in scena, non so se anche nella vita, Matt, insomma l'uomo delle macchine, l'uomo dei video. La loro collaborazione con un programmatore, Jules Laplace, e hanno creato una AI, ovvero una intelligenza artificiale che canta, che apprende a cantare, che si esercita anche con l'aiuto ovviamente di insegnanti. Questo pezzo mi ricorda i Purity Ring degli esordi, che fine hanno fatto, poveretti. Come in molti casi si tratta di un'esclusiva italiana presentata da Red Bull. E la cosa curiosa è che questa intelligenza artificiale vive in un PC per videogame modificato. Quindi elaborazione digitale della voce, elaborazione di canti folk senza tempo. Infatti è veramente meraviglioso, non trovo un altro termine. È veramente sorpreso. Anche perché poi per molte cose forse anche più tradizionale. Ci sono delle cose che si avvicinano a delle canzoni. Luogo della seconda serata del Club to Club sarà sempre OGR, Officine Grandi Riparazioni, e dove ci sarà Holly Herndon. Poi Spencer D, una metà dei Visible Cloaks, che farà un DJ set basato su una compilation da lui curata recentemente sulla scena ambient, minimal, avant-garde e new age giapponese. E poi ci sarà un altro DJ set dal titolo Spiritual Sauna, Rapala 700 e Virginia W. E di questo DJ set leggiamo: Spiritual Sauna, una festa per angeli, creature fantastiche e viaggi astrali, nata sotto il segno dello scorpione per portare sul dance floor pura energia positiva e un profondo legame comunitario. Cerchiamo in tutto il mondo nuovi strumenti per superare vecchi confini, rifiutiamo i generi e le definizioni, crediamo nell'unità che si crea dimenticandosi le differenze e mixandole in un'infinita melodia cantata da Enya. Spettacolo. Buongiorno. questo ci porta alla serata di venerdì 1 novembre, dove Visible Cloaks, stavolta insieme in duo, sempre alle Officine Grandi Riparazioni, si esibiranno, sempre per un'esclusiva italiana, insieme a Yoshi Ojima e Satsuki Shibano, con cui quest'anno hanno concepito un album dal titolo Serenitatem. Interessante quello tra due musicisti di Portland, Oregon, e invece questi musicisti giapponesi. In effetti c'è solo l'Oceano Pacifico che li separa. E è da Serenitatem che stiamo ascoltando questo primo pezzo dal titolo Anata. Seguito da quest'altra traccia che si chiama Samour ne fait par sa grâce adoucir, ballade Anne. Giapponesi con cui hanno concepito quest'album sono dei pionieri della scena musicale ambient giapponese degli anni 80 e 90, e in quest'album hanno voluto appunto creare una sintesi pura di visione artistica, elaborazione tecnologica, ambizione futuristica e a volte antica polifonia. Però insomma si sa che il grosso del festival è praticamente costituito dalla serata notte del venerdì e del sabato negli spazi del Lingotto Fiere, e quindi venerdì 1 novembre, sì, Visible Cloaks, questa collaborazione con i musicisti giapponesi alle OGR, mentre al Lingotto Fiere ci snoccioleremo quasi tutti gli artisti che suoneranno nella serata notte del venerdì 1 novembre. Senza l'ordine con cui l'abbiamo trovati iscritti nel programma, non sappiamo sale, non sappiamo orari, così non ci incasiniamo. Tra gli artisti in generale di tutte e due le sere c'è un punto interrogativo, quindi c'è ancora una sorpresa e c'è ancora un TBA che ancora non sappiamo, e a tutt'oggi non sono ancora stati rivelati questi nomi. Ma un nome che è stato rivelato è senz'altro quello di Flume, anche questa un'esclusiva italiana. Nome d'arte del musicista e produttore australiano Harley Edward Stretten, che ha iniziato facendo musica abbastanza house, UK garage. Invece in questo nuovo mixtape, appunto, non ho anche in passato detto che non capisco bene la differenza tra mixtape e album, ha un po' stupito per la varietà, la diversità dei suoni. E anche di questo mixtape abbiamo scelto due tracce. Questa prima si chiama Jewel e la seconda sfido chiunque a poterla pronunciare, perché è tutta una serie di simboli anche non riconoscibili. Rettangoli neri, una specie di sagoma tipo casetta. E anche qui tutto sta nella vista, tutto sta nel vedere questi simboli senza sapere cosa significhino. Molto giovane, ancora 27enne, ma già attivo da 8 anni, che si è fatto conoscere anche grazie ai remix per artisti più pop o indie come Lorde e Arcade Fire. Arriva lui che l'abbiamo visto tante volte, ma l'ultima volta che l'abbiamo visto nel festival dove l'abbiamo visto è stata una delle cose che ci ha emozionato di più, perché non c'è niente da fare. E mi ricordo che quando ho preparato la trasmissione per quel festival ho fatto un mix tra due altri pezzi di Assume Form, l'album uscito all'inizio, metà gennaio di quest'anno, perché ho pensato, vabbè, Don't Miss It sicuramente, cioè, l'ho già messa, invece non l'ho mai messa. Stiamo parlando ovviamente di James Blake. Con un album che non mi ha convinto completamente, molto eclettico, tantissime collaborazioni anche tra rapper della West Coast, visto che anche lui adesso vive a Los Angeles. E l'album fu anticipato da questa bellissima, bellissima, struggente traccia, Don't Miss It. Un'autoanalisi spietata e piena di rimpianto. Ed una raccomandazione, non fare come ho fatto io. I could say anything I like. I could switch off whenever I like. I can sleep whenever I like. I can leave in the middle of the night. Oh, oh. È sicuramente uno dei nomi principali di richiamo di questa edizione. E veramente tra tanti artisti, tanti concerti, alla fine, pur non essendo una novità, è quello che forse mi è rimasto di più. Perché se ci pensi, lui è uno di quelli che nessuno fa quello che fa lui. Anche e soprattutto per il modo di usare la voce. Le manipolazioni. La rigida formazione classica. You forget whether it was the beginning or end. When you can't believe your luck, you're with your friend. When you get to hang out with every person every day. Cambiamo decisamente suoni con una band che ha già partecipato qualche anno fa all'edizione in cui c'era Thom Yorke. Sono abbastanza sicura perché mi ricordo Alberto che c'era. E sono i Battles. Non sono i Buttholes Surfers, sono i Battles. Le battaglie. Come io so dire molto bene. Una band americana sperimentale che è di lunga vita. Formatasi nel 2002 a New York City. L'attuale lineup è Ian Williams, il batterista John Stenier, che è appunto famoso perché tiene questo piatto altissimissimissimo, non si sa come fa ad arrivarci. Tyondai Braxton e Dave Konopka. Sì, però anche loro ci hanno messo un po' di anni per fare il primo album, che è del 2007. Anzi, leggo che in realtà praticamente adesso sono diventati un duo, perché anche Konopka se n'è andato prima della pubblicazione di questo ultimo album, dell'ultimo album, si chiama Jewish B. Crypts, da cui stiamo ascoltando il pezzo di apertura, Ambulance. We'll be right back. siete su Radio Città Fujiko 103.1 oppure siete su mightyfm.blogspot.it, state ascoltando Mighty FM. Per volontà o perché ci siete capitati, Mighty FM che stasera parla del Club to Club edizione 2019. E che, come abbiamo scritto, pone veramente Torino al centro della scena culturale per il weekend. Per il classico ponte del 1° novembre, anche se sì, mezzo ponte. Anche perché appunto in quello stesso weekend c'è sempre anche Artissima, una mostra di la fiera di arte contemporanea a Torino, proprio nello spazio dell'Oval, subito dietro al Lingotto Fiere, quindi grande meta per chi vuole farsi una cultura musicale, appunto artistica, tout court. Finisce così il pezzo di apertura dell'ultimo album The Barrels, per la seconda volta presenti a Club to Club Ambulance. Sappiamo come il Club to Club non sia solo devoto alla musica elettronica, che sia sperimentale, d'avanguardia o semplicemente ballabile, ma che anche dall'anno scorso, insomma, con gruppi come Blood Orange, in passato gruppi come i Battles stessi e gli Swans, ha sempre avuto anche questa passione per i gruppi veramente alternativi, anche nella scena indie alternativa, alternativi de più. E uno di questi, assolutamente quest'anno, che questa rivelazione, sono i giovanissimi Black Midi, rock band sperimentale di Londra, con un chitarrista, cantante, Jordi Grip, veramente ipnotizzante, direi. E anche loro candidati al Mercury Prize di quest'anno. Il loro album di debutto si chiama Schlagenheim, pubblicato per la Rough Trade. E questo pezzo si chiama Near DT, MI, che io ho interpretato come Near Detroit, Michigan. O magari no. Però secondo me sì. Quindi grandi sorprese per questa edizione Club to Club, che dall'anno scorso aveva adottato il claim o il sottotitolo La luce al buio, e che di nuovo presenta questo sottotitolo La luce al buio 2. E finisce questo pezzo fulminante dei Black Midi, e invece passiamo a un musicista tedesco che ha partecipato anche all'edizione l'anno scorso del Club to Club, ovvero Ski Mask, e come l'anno scorso anche adesso suoniamo un pezzo del suo album del 2018, Compro. e non mi risulta che la parola compro abbia, cioè esista anche in altre lingue. E quindi se prendiamo per buono che sia la prima persona indicativa il verbo comprare, prima persona indicativa, certo, è assolutamente coerente il fatto che questo pezzo si chiami €50 to break boost, che non so esattamente cosa significhi, ma €50 l'ho capita. Ski Mask, giovanissimo, classe 93, Brian Müller, nativo di un paesino Emmering in Bavaria. A pubblicare nel 2014 e Compro è il secondo album vero e proprio, uno dei migliori album secondo Resident Advisor e Pitchfork, uno dei migliori album di musica dance del 2018. È mia colpa, adesso leggo sulla sua biografia che insomma all'inizio non si sapeva chi ci fosse dietro al suo pseudonimo, anche perché lui si era un po' stancato del fatto che i giornalisti si concentrassero sul fatto di quanto fosse giovane, ma voleva che invece parlasse la musica. Adesso passiamo alle mie beniamine a cui ho dedicato una puntata quasi un anno fa, perché fu in occasione del loro concerto di apertura ai Churches, che era mi pare il 14 novembre l'anno scorso. Sono le Let's Eat Grandma, che poi appunto ho rivisto anche un'altra volta dal vivo, sarà la terza volta. Rosa Walton e Jenny Hollingworth fecero sensazione con il debutto con I Gemini, proprio adolescenti sedicenni. Adesso hanno 20 anni e sono delle musiciste incredibili. Quindi diciamo appunto anche qui, no? Tutti concentrati sulla giovane età, però. Perché comunque se tu senti che hanno scritto certi pezzi a 13 anni, cioè pensi veramente che sono un po' dei piccoli geni. E questo è stato confermato con I'm All Ears del 2018, e avendo appunto fatto una puntata monografica e non essendoci stati altri nuovi pezzi pubblicati, abbiamo deciso di dare la caccia dei remix e li abbiamo trovati. Ne abbiamo trovati due a firma di Buzz e di Patten, e abbiamo scelto quest'ultimo che stiamo sentendo, di Falling Into Me, uno dei pezzi più belli dell'album, il mio preferito. stiamo ascoltando praticamente tutti gli acts della serata del venerdì 1 novembre, che presto diventa sabato 2 novembre, presso il Lingotto Fiere di Torino per questa nuova edizione 2019 di Club to Club, che è una cosa che hanno sempre fatto bene, ma soprattutto quest'anno a livello di immagine, progetto grafico, animazioni, foto, eccetera. Sono a cura di Weirdcore, un artista appunto responsabile dei video folli, della parte appunto visuale dei live set di Aphex Twin, già folli musicalmente. E se andate a cercare il suo portfolio, veramente notevole e molto molto molto bello il lavoro che ha fatto per Club to Club. Anche perché immagino che sia un artista, come si dice, in demand, molto richiesto. E sappiamo anche che insomma Club to Club sembra insomma avere delle risorse da poter spendere per chiamare appunto dei grandissimi artisti. E appunto, tornando alla parte veramente squisitamente indie alternativa, ci sarà anche More More. Tired eyes wait on you, can't please me, the sky's more gray than blue, but you hope. Questo debutto italiano, ma non per me, perché io l'ho già visto all'estero. Seth Nyquist da Toronto, un debutto l'anno scorso con Heaven's Only Wishful, uno dei 100 migliori pezzi per Pitchfork, per cui l'abbiamo suonato e l'abbiamo risuonato in occasione appunto della trasmissione sul NOS. E anche credo, anche no, sicuramente per la trasmissione dedicata a Niloufer Yanya. E avevamo suonato anche Outside e questa Past the Hours, che sono contenute invece in un EP successivo di quest'anno, Someplace Else. Questo pezzo molto indie, molto Smith. Sociologo che, dopo appunto aver frequentato sociologia per un semestre, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla musica. E More More, scritto tutto attaccato però con la seconda M altrettanto maiuscola come la prima, è il nome con cui lui chiamava la sua nonna, che non c'è più. E poi una grande sorpresa per me, ovvero un disco che è uscito a marzo. Anche qui scritto tutto maiuscolo, un gruppo che si chiama Rap, un album che si chiama Export ed è il secondo, un duo Guy Gormley e Thomas Bush per un album che mischia dub, techno, post-punk, gabber, shoegaze e che vedo che ha ottenuto un 8.4 come Best New Music da Pitchfork. Duo anglosassone. E questo ibrido, quest'album di The New Wave e musica elettronica sperimentale. Veramente, veramente bello. Questa traccia si chiama Young Persuasion. Davvero poche le cose che lasciamo fuori da questa solita rassegna che dal 2015 facciamo su Club to Club. Certo, non ha bisogno della nostra promozione. Ci piace raccontare. E tra le cose che non ascolteremo saranno i 72 Hour Post Fight, duo italiano, Luca Bolognesi, già anche Palazzi d'Oriente, suo alias artistico, e Carlo Luciano Porrini, invece già conosciuto, già attivo come Fight Pausa e Loite, che hanno debuttato per la Tempesta International con un album omonimo. In realtà è una traccia unica di 30 minuti fatto di campi elettronici e colpi di scena musicali, sospinti da improvvisazioni jazz al sax, chitarre taglienti e percussioni dinamiche. E poi ci sarà anche DJ set a cura di un'etichetta milanese, la Haunter Record, elettronica folle, noise irregolare, musica dance post-strutturalista, che presentano questo set al titolo Eighth and Sense Fracture. Ovvero Height and Sense Fracture. E finisce questo pezzo dei Rap ma tutto l'album è molto molto bello. E passiamo invece ad un artista che, insomma, a livello di DJ producer non se ne vedono ancora abbastanza. Lui viene dal Kenya, da Nairobi, ma sappiamo che sia la scena dell'Africa occidentale, che ha creato proprio dei propri ritmi, dei propri suoni, che anche quella dell'Africa orientale, sono molto vivaci. Lui si chiama Freddie M. Njau. Ha pubblicato diversi EP in questi ultimi anni. Infatti ascoltiamo due pezzi tratti da due diversi EP di quest'anno. Il primo pezzo si chiama Sonshitsu, tratto da Tomo, che poi sarà seguito da Onja, tratto da Sleep A. User che combina l'eredità ritmica locale con un'elettronica pura e astratta in modi che incantano i corpi sul dance floor, e che ha pubblicato tutti i suoi lavori per un'etichetta ugandese. Che si chiama Hakuna Kulala. Noi conosciamo l'espressione Hakuna Matata, che significa stai senza pensieri, ovvero nessuna preoccupazione, e in questo caso Hakuna Kulala significa niente sonno. Dopo un acclamato debutto con l'EP Lasakaneku, sono susseguite appunto altre pubblicazioni, e dopo Tomo e Sleep A, da cui abbiamo scelto due pezzi, è arrivato anche Sleep B, però un progetto collaborativo con un altro musicista. Ovvero Kiftai. Tra l'altro in questo EP Sleep A, da cui è tratto il pezzo che stiamo ascoltando, c'è anche la prima traccia che si chiama Cane, con la C. Insomma, bello potente. e cambiamo decisamente livello di volume e suoni. Una bellissima scoperta, anche questa non ha scoperta il senso di nome, perché noi Daniele Mana, già da Vaghe Stelle e poi anche le sue collaborazioni con Senni e il suo debutto appunto con il suo nuovo nome, che è solo il suo cognome per la Hyperdub di Code9, insomma lo conosciamo da anni, ma appunto per la Code9 ha pubblicato quest'anno un album, Seven Steps Behind, la cui title track è veramente bellissima. Un album che è una minuziosa raccolta di sogni reinterpretati secondo i dettami junghiani, ma in chiave elettronica. E il pezzo che stiamo ascoltando è Myopia for the Future. Dicevamo un debutto sulla lunga distanza per la, la Hyperdub di Code9, che è un grande amico del Club to Club. Praticamente fa un po' come in Shellac al Primavera, cioè quasi ogni anno. Un'etichetta che ha insomma accompagnato e fatto crescere artisti come Laurel Halo, come Hype Williams, Fatima Al-Kadiri. Soprattutto Burial. E si sente una gran chitarra elettrica, che è un po' strano questo connubio, ma ha usato anche archi, clavicembali, violoncelli, appunto. È per un album che è stato addirittura registrato nei spazi delle Officine Grandi Riparazioni. E come ho già detto, Seven Steps Behind è veramente un bel disco. E siamo ancora nella serata, idealmente del venerdì 1 novembre, dove poi un'altra cosa, che vabbè, si tratta di un DJ set, c'è cioè una specie di showcase della Hunderbeast Label. Che è un'etichetta italiana con sede a Vernasca. E che ha pubblicato tracce di James Ferraro, dello stesso Hype Williams appena citato, Lorenzo Senni, Primitive Art. E invece siamo passati a sabato 2 novembre, in spazio Lingotto Fiere, uno dei nomi di sicuro richiamo insomma, principali insieme a James Blake sono i Chromatics. Una band che ci ha fatto veramente patire questi ultimi anni per questo album che non usciva mai, poi alla fine è uscito Closer to Grey. Gruppo che esiste da una vita, è nato a Portland nel 2001. E che insomma hanno acquisito sempre più fama grazie a Night Drive e Kill for Love, soprattutto per l'etichetta creazione di Johnny Jewel, uno appunto dei membri dei Chromatics, ovvero la Italians Do It Better. Alla voce Ruth Radelet. È un gruppo che appunto ha fatto anche successo, insomma è stata una cosa reciproca. Un film come Drive, della sua colonna sonora, del ritorno a questi suoni così un po' morbidi, dei sintetizzatori degli anni 80, un po' quel suono che è anche stato ripreso, e l'ho già detto, dalla sigla di Stranger Things. Stiamo ascoltando appunto la title track Closer to Grey. Ma non solo, abbiamo voluto metterci un altro pezzo, Twist the Knife. Appunto, si sente questo suono? Molto riconoscibile, molto caro, molto malinconico, per un pezzo che sembra tributare un omaggio ai Joy Division, e lo sentirete tra un po'. Per un album che si apre con una cover, e che cover, The Sound of Silence, non è un'omonimia di titolo, è proprio quella di Simon & Garfunkel. Poi ovviamente i loro pezzi sono stati usati per un sacco di serie TV, da Gossip Girl a Mr. Robot a 13 Reasons Why a Riverdale. E un album è stato annunciato per un sacco di tempo, anche con il titolo, doveva chiamarsi Dear Tommy. E invece poi, da pochissimo, il 1 ottobre 2019, è uscito Closer to Grey, che non contiene niente del materiale che doveva uscire su Dear Tommy, che loro dicono che verrà comunque pubblicato. E c'è anche un'altra cover in questo album, agli antipodi di Simon & Garfunkel ci sono i Jesus & Mary Chain riletti. Con con la traccia On the Wall. E siamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, Mighty FM, Claudia Mighty Mau, che vi racconta, vi fa ascoltare, insomma, tutti gli artisti, di quasi tutti, di Club to Club 2019 a Torino, negli spazi delle Officine Grandi Riparazioni, della Reggia di Venaria, che non si sa ancora chi ci suonerà, la street party di Porta Palazzo, la domenica di Ripicchio e soprattutto le nottate al Lingotto Fiere. E la sera di sabato 2 ci sarà anche un DJ set di eccezione, ovvero quello di Romy XX, Romy Medleycroft. Sono sempre molto curiosa, perché comunque non è uno, insomma, l'uomo delle macchine, l'uomo delle basi, l'uomo dei suoni come Jamie XX, che ha anche prodotto appunto dei pezzi, un album lodatissimo in Colors a propria firma, ma che comunque ha prodotto, ha scritto anche per altri artisti tipo Mark Ronson, Dua Lipa e Kelela. E quindi siamo molto curiosi di sentire cosa sceglierà di suonare. Ma sabato 2 ci sarà la band dal nome The Comet Is Coming, che abbiamo già ascoltato in una trasmissione di Qatar Robot, in quanto che suoneranno nel party di chiusura del Robot Festival nella notte di sabato 26 ottobre nei spazi del Dumbo. Quindi domani sera, se ci state ascoltando in diretta, che è una diretta differita. Questo trio britannico, Danalog, Betamax, marchio registrato, e King Shabaka. Un gruppo che potete sentire unisce jazz, funk, rock psichedelico, cosmic funk, cosmic jazz. L'altra volta abbiamo ascoltato un pezzo dal titolo Summon the Fire, adesso invece ascoltiamo, sempre dallo stesso album, che è Trust in the Life Force of the Deep Mystery, di quest'anno, ma ce n'è già un altro quest'anno, non credo che sia però ancora uscito, di Afterlife. E il pezzo di apertura dell'album che stiamo ascoltando si chiama Because the End is Really the Beginning. Nasce dalla fascinazione per lo spazio, il cosmo, la fantascienza, i B-movies. Comet is coming. E non è ancora Natale. E invece è un nome che conosciamo da anni, abbiamo sentito, visto in diverse performance, sia live della sua musica che come DJ, selector, spesso e volentieri in compagnia di Daniel Snipe, alias Daphne, alias Caribou. È Floating Points, ovvero Sam Shepherd, inglese, e come Dan Snipe, che è un matematico, come suo padre e sua sorella, proprio accademici, matematici puri. È un fa musica elettronica, è un nerd, è uno scienziato, un neuroscienziato come Max Cooper, è un biologo computazionale, è una cosa che ho cercato di spiegare diverse volte. Quando l'ho visto l'anno scorso a Spring Institute ho detto: ma ti dedichi ancora allo studio della scienza, alla tua formazione accademica? L'ho detto: no, faccio solo musica. Floating Points, dopo un debutto importante con Elenia nel 2015 e altri progetti, ha pubblicato quest'anno Crush. Che ad un ascolto, insomma, non molto approfondito, però insomma di primo acchito ci sembra molto bello anche questo. Questo pezzo si chiama Last Bloom, l'ultima fioritura. Shepherd, che come DJ insieme a Daphne ha una predilezione per la musica jazz, funk, africana, per delle rarità anche abbastanza retro, e sono famosi per essere assolutamente instancabili. Hanno fatto un back to back qui a Bologna, Robot con Daphne, durato ore. Tra gli artisti che non possiamo farvi ascoltare è un grande punto interrogativo nella lineup del sabato sera: come non ascolteremo i napoletani Nu Guinea, Lucio Aquilina e Massimo D'Elena, che abbiamo visto sia Spring Attitude con formato di full band, ma anche a Robot, instancabili, bravissimi, hanno veramente sbancato con Nuova Napoli nel 2018. Insieme ai loro compari Napoli Segreta, DJ raffinatissimi che suoneranno invece uno street party di Porta Palazzo domenica 3 novembre. Un DJ set di dance, funk, napoletano, appunto di perle nascoste della copiosissima produzione musicale partenopea. E torniamo nel côté appunto più indie, alternativo, sempre di un certo livello e raffinatezza, con Helado Negro, ovvero Roberto Carlos Lange o Lange, Florida, Stati Uniti. Attivo musicalmente dal 2009 con tutti i suoi album pubblicati per la Asthmatic Kitty di Sufjan Stevens, tranne questo ultimo album del 2019, a distanza di 3 anni dal precedente. Si chiama This Is How You Smile. E questa traccia, molto delicata, non è un album veloce, è piuttosto lento e caldo, si chiama Running. Invece quest'ultimo album è pubblicato per la Revenge International, etichetta di Brooklyn. Per cui pubblica anche, ha pubblicato Holly Herndon anche su 4AD, Visible Cloaks, Laurel Halo, Julia Holter, insomma tutta la parte, sono tutti musicisti statunitensi più illuminati. Dopo Helado Negro passiamo ad una musicista bravissima, purtroppo l'abbiamo passata solo una volta in trasmissione perché ha suonato al Primavera Sound di Porto del 2018, un concerto funestato da una qualche sovrapposizione ma soprattutto da una pioggia fittissima, pesantissima. Lei aveva un outfit spaziale, un vestito stranissimo, bellissimo. E lei è Kelsey Lou, ovvero Kelsey McJunkins, da Charlotte, North Carolina, attualmente Los Angeles. Violoncellista principalmente. Ha debuttato nel 2016 con un EP bellissimo, Church, c'era un video meraviglioso in bianco e nero molto lungo. E poi primo vero album nel 2019, Blood, che contiene anche un singolo, Due West, co-prodotto, co-scritto da Skrillex, ma non suona come Skrillex. C'è anche un altro pezzo fatto con succitato Jamie XX. C'è anche una cover di I'm Not In Love dei 10cc, famosissima. Pezzi molto molto vari, anche molto lenti. Invece abbiamo voluto scegliere quello più, che è stato definito a Pitchfork, più il pezzo Studio 54. Dolce allo stesso tempo, si chiama Poor Fake. Insomma, prima di registrare e pubblicare musica a suo nome, ovvero l'EP Church prodotto da Patrick Wimberly dei deceduti Chairlift, ha lavorato con artisti come Solange, Blood Orange, Florence and the Machine, One Tricks Point Never, Kelela, Sanfa, insomma. Figlia di due musicisti, un percussionista e una pianista, che tra le sue influenze annovera, beh, dei classici classici come Prokofiev e Rachmaninoff, e poi ovviamente il Jazz, Thelonious Monk, Etta James, Billie Holiday. It truly is one of a kind. I lift my magnifying. Prima di avvicinarsi invece al pop e rock di Paul Simon e dei Led Zeppelin. Inspection is key. What do we have here? Could this be? Yeah. e un'altra artista molto particolare che abbiamo intravisto tra la nebbia del fumo e che volevamo vedere alla Roboterie, ma non è stato possibile perché aveva tranciato il suo tour non sentendosi ancora pronta per esibirsi al meglio le sue possibilità. È Sophie Xeon, Glasgow. Dopo diversi pezzi all'inizio, appunto, come esponente alla cosiddetta PC Music, ricordiamo Lemon e altre canzoni, insomma, ha esordito con un album che ha avuto tantissimo successo, ovvero Oil of Every Person Inside. E siccome l'abbiamo suonato un po' di qua e di là diverse volte per diverse ragioni, anche nella trasmissione dedicata a Let's Eat Grandband, perché ha coprodotto uno dei singoli, o addirittura ha lavorato su due pezzi dell'album, adesso abbiamo cercato cosa potesse esserci di nuovo. Abbiamo trovato un remix album, che il disco ormai è del 2017, questa è Cold World. Sì, il primo pezzo che abbiamo conosciuto era Beep, che era contenuto nella classifica delle migliori tracce di Pitchfork, era il 2013. E poi il primo video tratto, che poi è stato pubblicato su questo album, It's Okay to Cry, dove per la prima volta abbiamo visto il suo volto angelico, e poi altri singoli, Pony Boy e Face Shopping. Sicuramente uno spazio chiuso come quello che ricorda appunto l'atmosfera di un club sarà diverso, ma vederla in mezzo a un prato al freddo in tarda notte non è stato il massimo, perché è un po' astratta come performance e quindi è un po' difficile da starci dentro. E siccome questo remix album non ha soluzione di continuità, insomma è un continuous mix, ecco che questa prima traccia, Cold World, finisce brutalmente così. E visto che insomma sono venuti i Chromatics, perché non far suonare anche un'altra incarnazione alternativa? Che vede sempre Johnny Jewel, anche membro dei Class Candy. Gli piace avere questi gruppi con sempre voci femminili diverse. Quella un po' mattarella dei Class Candy. E invece questa band nata a Montreal nel 2009, che ovviamente incide sempre per la Italians Do It Better. Si chiama Desire. Ha fatto un solo album in studio dal curioso titolo 2 romano, ma che hanno raggiunto la notorietà grazie a questo pezzo che stiamo ascoltando, Under Your Spell, contenuto appunto nella succitata colonna sonora del film Drive. Film fortunatissimo di Nicholas Winding Refn con Ryan Gosling e Carey Mulligan, che ha fatto anche secondo me almeno un pezzo insieme a Belen Sebastian, una cosa del genere. Anche se sempre insomma sulla falsa riga di questi suoni, diciamo, il pezzo trainante era Real Hero. Gruppo formato appunto da Johnny Jewel, vero nome John Padgett, Megan Louise e Nat Walker. Mangio, non dormo, non faccio altro che pensare a te. E nel parlato precedente si chiede se c'è differenza tra l'amore e l'ossessione e se il sentimento può durare per sempre. Stiamo ascoltando quasi tutti gli artisti che si esibiranno a Club to Club edizione 2019, dovrebbe essere più o meno la 18ª. Per un evento che mette davvero Torino al primo posto delle medie italiane per passare il classico ponte di inizio novembre, ma passiamo a un'altra esclusiva italiana, che appunto un festival che segue l'avanguardia e la sperimentazione, ma che appunto tiene il polso di quello che è assolutamente contemporaneo e che non venga necessariamente dai centri conosciuti, ma che arrivi appunto anche da località un po' più periferiche, eccentriche, che invece insomma meritano un maggiore riconoscimento, e questo è il caso di Issam. Non ho avuto il tempo di informarmi sul contenuto di questo pezzo, di questo rapper trapper cantante proveniente da Casablanca. صباوية أنا الليلي غفراوية نو باقي سيب غالي مروري ما عرفش مشا غنصاي أنا وصحابي مروبي نرجع من الزراي جيلي فونكي صوني راه في اللوجة كيعيط لكن كي خفيفة صاحبي حدي راسك راك غطيط ستودو ما لايف شحال ما حاجة خايبة خلتني نبدل كاع داكشي اللي كيبان فيا سام هاريس كي ها اوتينوتو السوكسيسو كون كويستو بيتسو كي ستيامو اسكولتاندو نيل 2018 سي كياما تراب بيلدي ovviamente caratterizzato dall'immancabile autotune in una carriera molto recente iniziata nel 2016 che ovviamente ha raggiunto grande popolarità grazie al video su YouTube che ha superato i 10 milioni di visualizzazioni, ma non è l'unico singolo, perché comunque ce ne sono stati altri 5 precedentemente. Uno si chiama Rolex, uno si chiama Caviale. In realtà vedo che c'è un singolo più recente, l'ultimissimissimo, ma io sono andata sul pop, sono andata sul sicuro con il pezzo che l'ha reso famoso e l'ha fatto conoscere, tant'è vero che l'anno prossimo esordirà con un album per la Universal France, Issam. E anche qui cambiamo brutalmente registro con una artista, una musicista che si è sempre contraddistinta per dei suoni eterei, abbastanza tendenti al triste, e che qui nel programma è presentata col nome di Nivek, ma non è altri che Liz Harris, già conosciuta con l'alias di Grouper. La sua produzione a nome Nivek è arrivata appunto a sorpresa, senza nessun annuncio. È un album composto di 4 tracce, alcune lunghe, una quindicina di minuti, e noi stiamo ascoltando un quarto. Una traccia di oltre 16 minuti, ovvero After Its Own Death, Side A, ed altre che appunto si compone di due versioni, e poi le altre due hanno il titolo Walking in a Spiral Towards the House. Thank you. per un lavoro che è nato dopo una residenza artistica a Murmansk, all'apice dell'estate artica. Qualcosa che è arrivato con un sogno, quando appunto era nell'Artico. Un sogno in cui assisteva a una specie di rituale. E in questo sogno lei doveva imparare cos'era quel rituale. C'era una donna in questo sogno e questa donna si chiamava Nivek. Ed è così che appunto è nata l'ispirazione per questa nuova opera e il contrasto sempre incredibile con quello che è arrivato dopo. Ma appunto per Liz Harris questa è stata l'ispirazione. E la cosa curiosa è che nel sogno era nell'Artico, ma la proposta di fare una residenza artistica nell'Artico le è arrivata subito dopo. E tornando al fatto che fortunatamente anche artisti provenienti da luoghi che non sono insomma quelli principali riconosciuti sulla mappa della musica elettronica della club culture, a riprova di ciò l'attenzione che anche Club to Club ha appunto per luoghi esotici per la musica elettronica. Se ormai artisti provenienti da realtà privilegiate, ovvero l'Israele del Red Axis e di Moscoman, insomma sono già artisti conosciuti, fa piacere che ci sia una DJ producer donna che viene da Ramallah, ovvero dalla Palestina. Il pezzo che stiamo ascoltando è 1-2-2, tipo la proporzione, la ratio 1-2, contenuto in un EP del 2015, Quantum Morphosis, però con un altro alias. Si chiamava Skywalker, adesso si chiama Sama. Nuovo album, questo nome ancora non c'è, sul suo SoundCloud ci sono solo dei grandi J-set, tra cui una Boiler Room a Beirut. Ha fatto scalpore. E soprattutto la Boiler Room in Palestina. DJ dal 2006, appunto a Ramallah. E il pezzo finisce così per un artista che ha cominciato poi a concentrarsi sulla musica elettronica nel 2010, in particolare sulla techno e sulla house, e poi nel 2011 si è trasferita nel Regno Unito per acquisire un master praticamente in audio engineering e music production. e poi ha cominciato a lavorare stabilmente nel 2013 al Cairo come tecnico del suono, ingegnere del suono, produttrice musicale, audio trainer e sound designer per film. Quindi assolutamente da non perdere, insomma. Ma questo suono così un po' ansiogeno, devo dire, è di grandi amici, grandi torinesi della scena elettronica alternativa, ovvero Davide Tomat e Gabriele Ottino, che con la loro incarnazione come Niagara fecero per me l'album migliore 2014. Poi con l'altro album, sempre a firma Niagara, si sono dati a video interattivi, uso di guanti. Video 3D. E adesso hanno un'altra incarnazione, si chiamano Spime AM, scritto maiuscolo. È in realtà un collettivo che non vede solo Davide Gabriele, ma anche altri artisti, e hanno pubblicato un album, Exaland, che sintetizza la realtà usando l'espressione umana con le potenzialità tecnologiche in un mondo virtuale infinitamente mutevole. E tutte le tracce si chiamano Exaland e sono numerate, e questa è la numero 5, corredata da un video veramente bellissimo, un montaggio velocissimo, diciamo un'associazione di idee che copre praticamente tutta l'esistenza umana, molto molto particolare. E sebbene Spime AM, questo collettivo formato appunto anche da Stefano Maccarelli e Marco Casolati, sarebbe insomma l'ultimo nome in cartellone, perché poi abbiamo finito insomma con gli artisti del sabato 2 novembre al Lingotto. Ricordiamo anche i Blinky, un duo milanese, Andrea Bernardo e Francesco Chiamulera, che hanno pubblicato un EP, anzi in realtà l'uscita ufficiale è il 31 ottobre, si chiama Sincro, ma non lo ascoltiamo. E la programmazione Club to Club finisce appunto con un artista ancora sconosciuto, la Reggia di Venaria. Con lo Street Party di Porta Palazzo, abbiamo già citato i Napoli Segreta, e poi il collettivo Stamp Valley, sempre local, ovvero house contaminata da jazz e ambient. E saremmo arrivati alla fine, ma ci è piaciuto così tanto Proto di Holly Herndon che abbiamo deciso di mettere così come sigla finale un altro pezzo, si chiama Swim, tutto in maiuscolo. E si conclude così l'ennesima trasmissione abituale, annuale, dedicata al Club to Club, Festival di Torino, La luce al buio, un omaggio a Battiato, parte seconda, seconda edizione. Un programma eccellente, come sempre, delle sedi importanti come l'OGR, in questo progetto di riconversione di tutto un panorama urbano industriale ormai in abbandono dell'industria automobilistica, e tantissimi di questi luoghi l'abbiamo visto negli anni, anche luoghi usati tra virgolette dal Today's Festival, erano appunto sedi di fabbriche, industrie, ovviamente la Fiat ma non solo, riconvertite appunto ad uso culturale per una città che insomma dalla Fiera del Libro al Museo Egizio ha sempre fatto insomma della cultura il suo, diciamo, il suo focus cittadino, come diciamo Bologna il cibo, diciamocela. Ma basta parole, non parlerò più. Ascoltiamo Swim di Holly Herndon. Ciao, da Claudia, Mighty Mouse.